Rassegna eventi. E rieccoci qua. Rieccoci qua con la rassegna degli eventi della settimana. Dai, da lunedì 25, cioè stasera, fino a domenica 31. Esattamente, partiamo infatti da stasera al CPA Firenze Sud, aperitivo ore 19, cena ore 21, tutto ciò per arrivare alle ore 22:30 per la proiezione di The Giver, il mondo di Jonas, un film del 2014 diretto da Philip Noyce, adattamento cinematografico del romanzo fantascientifico distopico The Giver, il donatore di Louis Lowry. Martedì. Sì, martedì 26 abbiamo l'assemblea al Campino alle ore 18:30 in vista del corteo in memoria a Orso, Lorenzo Orsetti Tecoscher, che si svolgerà domenica 31 alle ore 15 in Piazza Leopoldo, ma prima appunto 26 al Circolo Il Campino via Caccini alle ore 18:30. E invece abbiamo mercoledì 27 un altro incontro del rap in polveriera. Ma guarda un po' chi c'era, Tre Crew in polveriera, questo è lo slogan, organizzato dal collettivo Tasers, Disaster Crew e Machine Funk, laboratorio con Open Mic, Jam Session, Freestyle, Production e Dance. Quindi se volete, dalle ore 16 alle ore 20, in polveriera, tutti i mercoledì, e questo è pare il terzo incontro, ne seguiranno altri tre, una cosa del genere. Get Up Assis, vai! Giovedì 28 al CPA tornano le serate jazz al CPA ogni quarto giovedì del mese. Le serate saranno curate da Cosmo Marchese e dai ragazzi del Cambia Musica Firenze. Il palco sarà aperto naturalmente per chiunque vorrà salire e suonare qualsiasi strumento. Alle 21 una cena popolare, alle 22 inizio spettacolo e jam session. Non finisce qua perché abbiamo un evento anche all'Emerson. Vai, all'Emerson, sempre giovedì, un giovedì all'insegna del punk. Appunto Peste, Power Violence Hardcore da Torino, e in destinazione finale AC italiano anni 80, alle ore 22, quindi sempre, ci sarà questo concerto sempre giovedì a cura del collettivo Crisis, giovedì in Crisis episodio 2. E mettiamo in crisi l'università alle ore 18, presentazione in Aula Magna con Paolo Ranieri di Critica Radicale in Italia, Ludo e bla bla bla. E alle ore 20:30 aperitivo nel chiostro con a seguire musica, cibo, bere a prezzi popolari. Passiamo a venerdì 29, sempre al CPA, Big Lebowski Fest is back in town. Gli ultimi rimasti del centro storico Lebowski tornano con la festa della curva al centro popolare autogestito di Firenze Sud. Il percorso è il solito, battuto da tempo, dall'aperitivo al cenone sociale, dal cenone alla sala concerti, per una serata in pieno stile grigio-nero. Di seguito la tabella di marcia. Allora, ore 19 aperitivo, ore 19:30 presentazione e incontro con i ragazzi e le ragazze del collettivo organizzativo della Nora CISM Cup Lecce, che alla vigilia della decima edizione presentano e promuovono il libro corale Un calcio al razzismo, Nora CISM Cup, 10 anni di antirazzismo nel Salento. Ore 21:30 cenone sociale, ore 23 apertura sala concerto e live set con Neo X Astro, All Star Crypter e molti altri. Sempre da venerdì invece al collettivo, a cura del collettivo di scienze, si sta parlando della manifestazione Norio Porto Sea Parco in previsione per il sabato, ma il polo scientifico è occupato fin da venerdì con l'organizzazione della celebrissima cena al polo, per poi sabato mattina sono previste attività e poi naturalmente il corteo, e la domenica invece è dedicata ai laboratori, quindi a partire da venerdì con la cena al polo presso il polo scientifico di Sesto Fiorentino. Sempre in tema, lo spazio inchiostro verso il corteo del 30 marzo, prepariamo insieme striscioni e cartelli verso la manifestazione contro la devastazione della piana. Portate quello che volete, pennelli, vernici, cartoni, vecchie lenzuola, per stare insieme e prepararci in vista di sabato. Esatto, quindi sabato andiamo direttamente a sabato, l'appuntamento è al polo scientifico alle 14:30, polo scientifico, per poi far partire un corteo. Non è l'unico evento di sabato, perché abbiamo anche un evento al CPA, Switch Live Net torna in campo per la prima data del 2019. felicissimi di ospitarvi al CPA Firenze Sud. Si parla di alternative rock, stoner, psychedelic, saranno gli ingredienti della serata. Sul palco, in ordine, le Pietre dei Giganti, God of the Basement e Silence of Is Spoken. Tutto questo dalle 22 presso il CPA Firenze Sud. Sempre sabato sera dalle ore 21 invece al Teatro del Progresso, lo spettacolo teatrale E l'han buttato giù, spettacolo dedicato appunto a Giuseppe Pinelli, staffetta partigiana, ferroviere anarchico e padre di famiglia, capo espiatorio istituzionale, per circostanza o per perfidia, sicuramente per ingiustizia. Lo spettacolo inizierà alle ore 21, c'è un ingresso di 10 euro riservato ai soci Arci. Spettacolo che vede in campo, insomma, un sacco di persone conosciute anche, che hanno partecipato anche altre cose che abbiamo pubblicizzato. Vero, verissimo, si possono dire con Simone Faini, Filippo Frittelli, Federico Tassini, la scenografia e video a cura di Lorenzo Latini, il maestro, drammaturgia e regia Federico Tassini. E così, però c'è un altro evento, sempre sabato 30, presso gli spazi della polveriera, esatto. Spazio Comune, via di Santa Reparata. È una serata hip hop, MC e DJ Harder Ground, che sono composti da Palenoir, Supa G, Grano e poi una serie di DJ, DJ Fanculo, DJ Muffa e tanti altri. Tutto questo a partire dalle 18.30. In difesa della polveriera, in difesa di ogni autogestione. Braff. Allora, arriviamo quindi a domenica 31. Domenica 31. Allora, c'è corteo, giornata nazionale per Orso Teco Serra e per tutte e tutti i combattenti per la libertà. Concentramento ore 15 in Piazza Leopoldo a Firenze. Leggiamo per Orso, per Teco Serra, e segue un comunicato, esatto, che a cura della rete della comunità curda in Italia, che potete trovare tranquillamente sul pagina Facebook di Coordinamento Toscana per il Kurdistan. Per adesioni, info e logistica della giornata scrivete a toscana.kurdistan@gmail.com o alla pagina Facebook Coordinamento Toscana per il Kurdistan. E siamo arrivati alla fine, vi ha detto poco, vi lasciamo a Coccola al Silicio, noi ci sentiamo la settimana prossima. Wombat. Rassegna eventi.